del Presidente della Repubblica Ciampi, durante la consegna dei premi di Saint-Vincent sul giornalismo, in particolare ha fatto proprio un invito a una maggiore apertura internazionale dei nostri media e soprattutto li ha invitati a raccontare di più di quello che accade non solo qua in Italia ma soprattutto in Europa e anche al di fuori dell'Europa. Peccato che questo invito, diciamo, di Ciampi cade nel vuoto, perché proprio nelle ultime settimane la RAI, che quindi dovrebbe fare servizio pubblico, ha spostato la trasmissione Giorni d'Europa al sabato notte, dopo l'una. Praticamente questa trasmissione è l'unica, a livello di programmazione della RAI, l'unica trasmissione che si occupa di fare informazioni sulle attività istituzionali del Parlamento europeo. Tra l'altro la RAI è pagata dall'Unione Europea per fare questo tipo di servizio, e la RAI, invece di facilitare appunto la conoscenza di queste informazioni da parte dei cittadini, l'ha spostato in un orario improponibile. Dopo la trasmissione di Panariello, la rubrica cinematografo, a l'una di notte vengono date queste informazioni che invece dovrebbero essere la base appunto dell'informazione pubblica. Tra l'altro questo spostamento di questa trasmissione viene dopo anche altri fatti che riguardano proprio la RAI. Voglio citare solo il 29 ottobre, quando è stata firmata appunto la Costituzione europea, il Palazzo Chigi ha deciso di estromettere la RAI, che è il servizio pubblico, dalle riprese televisive dell'evento, diciamo, della firma della Costituzione, dando a una società privata l'esclusiva delle riprese. Tra l'altro questo segue anche dibattiti e contrasti fra il governo italiano e le istituzioni europee. Ci ricordiamo ancora molto bene la proposta del governo italiano di commissario europeo Buttiglione, che poi è stata contrastata appunto dal Parlamento europeo, e quindi c'è questo dibattito in corso. Il governo italiano solamente non facilita il passaggio di informazioni da parte del Parlamento europeo, perché lo vede come un possibile avversario, e questo naturalmente non è una cosa campata per aria, ma a livello europeo tutte, moltissime organizzazioni internazionali, tipo il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, Report Sans Frontières, hanno diciamo criticato apertamente il sistema informativo italiano, che presenta dei problemi enormi. In un rapporto di Report Sans Frontières del 2003 dice che il nostro paese è solo al 40° posto per quanto riguarda la libertà di stampa, o ancora nel marzo di quest'anno il Parlamento europeo ha affermato che esiste in Italia un rischio di violazione della libertà di espressione e di informazione in Italia.